poi interviene, poi comunque la rappresentanza verde mi sembra abbastanza visibile. Sicuramente c'è sia Paolo, sia Reggio Mariani, che altri miei compagni. Ma dico alcune cose. Ma innanzitutto gli impegni. Mi ha molto colpito però, devo dire, l'intervento di Neymar, soprattutto importante per la tenacia, perché io credo che rispetto alle ingiustizie, essere rigorosi a dire che le ingiustizie non devono essere accettate, questo è un fatto giusto ed è un diritto, come dire, opporsi a cose così palesemente giuste. Ed è anche molto importante, io credo, e quindi sono contento di aver avuto la tessera dell'associazione, che la battaglia la si faccia per il diritto alla casa di tutti, perché io credo questo fa una grande differenza tra quella che potrebbe essere considerata una battaglia solo per se stessi e quella che invece noi possiamo recepire anche politicamente e sostenerla, che è il fatto che in questo paese da troppo tempo si è accettato, e io credo anche da parte di una parte del centro-sinistra, il fatto che per esempio le grandi proprietà immobiliari, anche pubbliche, siano state sostanzialmente svendute con grandi affari privati senza rispondere prima all'esigenza del popolo che aveva esigenza di avere una necessità abitativa. Cioè questo è un problema serio che noi abbiamo da riflettere, che credo insieme a Paolo come insieme agli altri dobbiamo porre tra i temi del programma dell'Unione di centro-sinistra, perché sennò c'è differenza. Se noi non riusciamo a dare un segnale diverso, e quando parliamo di diritti, io credo quando diciamo il diritto, per quanto ci riguarda, come ho sempre detto, il diritto all'ambiente, che significa respirare e poter campare, il diritto alla casa, al reddito, alla salute, alla scuola, fanno la differenza tra una società civile e una mera giungla in cui chi è più forte, più ricco e più capace si prende tutto e gli altri sprecano. Perché questo è quello che noi vediamo troppo spesso. Questo è il discorso bene comune. Io credo che quando nel titolo di oggi si parla di casa come bene comune, vuole essere il discorso di dire abbiamo il diritto in una società che si definisce in qualche modo evoluta a garantire alcune priorità a tutti. E io credo, devo dare atto, che l'attività svolta dai movimenti, verso il quale, come dire, è molto importante il fatto quando si dice esiste un'altra soggettiva, in termini più tecnici e più scelte si parla in Europa persino queste cose di new governance, cioè della possibilità di capire che oggi la politica non la fanno più solo i partiti e le istituzioni, ma la fanno i cittadini in una serie di forme aggregate. Allora io credo che questo è molto utile alla politica, perché il fatto di essere riusciti a convincere il Consiglio Comunale di Roma, e io penso e spero presto anche la nuova Regione Lazio, perché se abbiamo cacciato via Scorace, noi dobbiamo dare il segno che la Regione fa. Per quanto ci riguarda, noi questo lo vorremo, perché è chiaro che il Comune ha delle risorse, la Regione ha altre risorse, e finché non riusciremo anche, come dire, a cacciare Berlusconi e andare al governo nazionale, dobbiamo fare in modo che adesso almeno funzionino queste regioni che abbiamo fatto. Evidente che su alcune materie, allora, l'emergenza abitativa può essere affrontata a livello del comune, sicuramente, e questo è importante, ma è chiaro che attraverso gli strumenti della legislazione urbanistica, dell'edilizia pubblica, di una serie di strumenti che sono in mano alla regione, bisogna riuscire a fare, come dire, una previsione, una politica, perché è evidente, quindi quello che si diceva prima, oggi il problema degli affitti riguarda sia chi è sotto sfratto, sia moltissimi, cioè famiglie e cittadini che pagano dei fitti e dei canoni che sono assolutamente inaccettabili rispetto al reddito e agli stipendi. Questo è un dato reale. Allora è evidente che di fronte a questo, quando l'abbiamo detto più volte, anche nel discorso del fisco, si parla, tassiamo, non tassiamo, cioè è evidente che se un paese civile non riesce a tassare chi ha migliaia e migliaia di appartamenti, migliaia e migliaia di immobili, e pensa che si possa fare una politica sociale senza una cosa elementare, che non è che c'è bisogno di chissà quale grande strategia, e cioè che chi è più ricco paghi più tasse, se noi passiamo a questo primo elemento elementare non riusciamo a fare i soldi per fare tutti i abitualmente è chiaro. Peraltro si sta avendo un dibattito perfino pensiero leggermente sul problema che oltre un certo limite, quando si è posta la tassa di successione e donazione, anche per chi deve dare in successione centinaia di appartamenti, è stato fatto un oltraggio a un elemento fondamentale del diritto civile. Io credo che se c'è una cosa, adesso non lo so, ne dobbiamo dibattere, ma per quanto ci riguarda noi il fatto di dire che se andremo al governo, come c'è lo stesso governo nazionale, dobbiamo ripristinare la tassazione sulla successione e donazione per chiunque trasferisca decine o centinaia di appartamenti, questo è un primo atto dovuto che lo dobbiamo al consenso, oltre che al fatto elementare di correttezza. Quindi abbiamo due aspetti, secondo me. L'emergenza, e sull'emergenza si chiedeva, purtroppo il decreto legge non lo possiamo fare, cara signora, né io né 29, perché il decreto legge lo fa il governo nazionale. Quello che possiamo fare è creare la mobilitazione, perché non solo noi come forza di opposizione, ma questa è una cosa che noi possiamo chiedere, che tutte le regioni di centro-sinistra, che sono oggi la maggioranza della conferenza Stato-Regioni, chiedano al governo una proroga degli sfratti e un proroga delle situazioni di un'altra. Tanto anche una risposta ai milioni di italiani che hanno votato per le forze del centro-sinistra alle regionali, perché se no noi nell'attesa che, come dire, facciamo quest'altro anno di sofferenza e di disastro, abbiamo però tante situazioni emergenziali che possono essere, a meno che capito, che possiamo realizzare. Ultima considerazione, io penso che per quanto riguarda anche il discorso della situazione dell'Inter, noi abbiamo alcuni temi che, devo dire, sono più frutto di una aberrazione giuridica, perché è chiaro che la situazione delinquente, il nostro ordinamento, tende a colpire i delinquenti e i rapinatori, tende a colpire la malavita organizzata, utilizzarla come strumento di repressione di chi si organizza per difendere un proprio diritto è un atto demenziale. È come dire che i cittadini che a Scanzano hanno fatto la grande mobilitazione per evitare di avere le discariche nucleari, un'associazione delinquente di 500.000 persone perché non volevano niente alla grande nucleare. Non è assolutamente. Io non so se dovremmo fare anche degli interventi sul codice, però in questo caso, guarda, prima di tutto c'è proprio anche un intervento forte sulla magistratura, che non può, secondo me, interpretare una norma che non è sicuramente ipotizzata e non è mai stata utilizzata, tra l'altro, in modo così becero, perché è chiaro che tutto è interpretabile. Ma io credo che allora dobbiamo dire con chiarezza che per quanto riguarda la tutela dei diritti civili, dei diritti sociali, il fatto che i cittadini si organizzino anche con forma di disobbedienza civile non può essere mai paragonato all'associazione delinquere dei rapinatori, dei saccheggiatori o della malavita organizzata. Se dobbiamo prendere anche qualche iniziativa pubblica, però intanto che noi abbiamo il codice, ne hanno fatti 10 di processi comunque, quindi credo che se fra il tempo che facciamo il dibattito, forse è utile, noi siamo disponibili anche un'azione, come dire, parlamentare, politica, per riuscire a farre evidenziare che, come quando abbiamo detto sui reati d'opinione, quando c'è stato l'utilizzo dei reati d'opinione per inventarsi delle formule astruse e colpire sostanzialmente le opinioni dei cittadini, nemmeno le astruse in quel caso, di fronte a forme che sono pubbliche, che sono palesemente di lotta democratica, ovviamente anche dura rispetto alla durezza di alcuni attacchi, noi non possiamo accettare che questo sia parificato alla malavita, alla mafia, alla camorra, alla tragica, perché questo è assolutamente un'offesa al consenso oltre che ai cittadini. Credo che da questo punto di vista le iniziative, per quanto ci riguarda come verti, noi siamo non solo d'accordo ad aprire una vertenza diritto alla casa e diritto non alla nuova legge sulle ecocamere, ma diritto a un canone che sia comunque equo, al di là della legge o della legge, ci deve essere una logica per cui il canone che uno paga per l'affitto abbia un riferimento con i redditi che esistono, perché non è possibile che il canone sia veramente non pagato a quanto guadagna. Siamo di fronte a una proprietà privata e non proprietà privata, queste sono le requisiti e secondo me dobbiamo riuscire a imporre, non sarà facilissimo, ma credo che la vostra battaglia aiuta anche quelle forze politiche che vogliono fare di questo una dei temi della battaglia politica. Noi lo faremo in comune, lo faremo in regione, penso e spero con tutta la forza e anche l'energia innovativa, perché queste cose si fanno all'inizio della nuova legislatura, prima che i poteri forti inizino a condizionare anche la nuova giunta e il nuovo consiglio regionale. Dobbiamo fare tutti i portiere e questo è il momento. E infine, da noi fare il grande sforzo di metterlo nel programma dell'Unione, e sta però insieme a voi fare il grande sforzo con il batteria per lo scuola dal governo del paese, perché non io vi ringrazio, mi scuso se l'ho abbandonato, sono ampiamente rappresentato. Allora, continuiamo. Io una cosa volevo dire, che una cosa prima che va via al posto, cioè io non so quanti sindaci condizionano le forze politiche che sono presenti oggi qui, però il 25 Lanci viene a Roma. Di fronte alle sicure non risposte che arriveranno al governo, già sappiamo di cosa si parla e si parla veramente di niente, anzi io chiamerei il gioco delle tre carte quello che il governo sta mettendo in campo. Ho previsto, non so quanti sindaci riuscire a condizionare, però probabilmente si può fare un ragionamento in questo senso. Sarebbe il caso che i sindaci, usciti da quell'incontro, tornino nei loro luoghi e immediatamente facciano diventare attuativo il blocco degli sfratti, come risposta alla non risposta del governo. Credo che questo sia un atto che ci possiamo aspettare, portiamo addosso ogni giorno che andiamo a bloccare uno sfratto, è una disperazione che ci lascia pieno di segni e le aspettative che stiamo generando nella resistenza sono aspettative infondate senza un blocco degli sfratti, sono infondate. E adesso vorrei far intervenire Mauro, capo Dio, per un istante si vorrei aiutare tutto. Poi continueremo con questo, far intervenire anche gli sfrattati che sono venuti a questa assemblea, perché ci sembra opportuno portare la loro cose qua dentro, perché faremo interventi intervallati in questa maniera.